In ogni uomo esistono facoltà latenti per mezzo delle quali può acquistarsi conoscenze sui mondi superiori. Il mistico, lo gnostico, il teosofo parlano sempre di un mondo delle anime e di un mondo degli spiriti, che sono per loro altrettanto reali quanto quello che si può vedere con gli occhi fisici e toccare con le mani fisiche. Chi li ascolta può sempre dirsi che anch'egli può avere le esperienze di cui si parla, se sviluppa in sé talune forze che ancora dormono in lui. Si tratta soltanto di sapere come occorra adoperarsi per sviluppare tale facoltà. Un consiglio al riguardo potrà venire dato soltanto da chi già possiede quelle forze. Da quando esiste il genere umano, vi sono sempre state scuole nelle quali chi possedeva le facoltà superiori istruiva coloro che aspiravano alle medesime. Tali scuole vengono chiamate occulte e l'insegnamento che vi si riceve si chiama insegnamento occulto. La denominazione si presta naturalmente a malintesi. Chi la ode può con facilità essere indotto a credere che gli uomini capaci di impartire tale insegnamento vogliano essere una speciale classe privilegiata che trattiene arbitrariamente il proprio sapere senza trasmetterlo ai propri simili. Oppure può anche credere che dietro a quel sapere non si nasconda forse niente di importante, poiché se si trattasse di vera conoscenza non occorrerebbe farne un segreto. Si potrebbe comunicarla apertamente e renderla accessibile a tutti gli uomini. Coloro che sono iniziati nella natura della scienza occulta non si meravigliano affatto che i non iniziati possano pensare a quel modo. In che cosa consiste il segreto dell'iniziazione può essere compreso soltanto da chi abbia egli stesso sperimentato l'iniziazione nei misteri più elevati dell'esistenza, fino a un determinato grado. Si può ora chiedere, in queste condizioni, come potrà il non iniziato avere un interesse umano qualsiasi per la cosiddetta conoscenza occulta? Perché e come dovrebbe cercare qualcosa della cui natura non può formarsi alcuna idea? Già una domanda siffatta poggia su un concetto del tutto erroneo della natura della conoscenza occulta. In realtà non vi è differenza fra la conoscenza occulta e ogni altra conoscenza o capacità umana. La conoscenza occulta è un mistero per l'uomo medio soltanto nel senso in cui la scrittura è un mistero per chi non l'ha imparata. Come ognuno può imparare a scrivere, purché scelga la via giusta, così ognuno può diventare un discepolo e magari anche un maestro di occultismo, purché cerchi la giusta via. Solo per un aspetto. Le condizioni sono in questo caso diverse da quelle della conoscenza e delle capacità usuali. La povertà o le condizioni culturali del suo ambiente possono privare qualcuno della possibilità di acquisire l'arte della scrittura. Per conseguire conoscenze e capacità nei mondi superiori non esiste ostacolo per chi seriamente le ricerchi. Molti credono che occorra andare in cerca dei maestri della conoscenza superiore per riceverne spiegazioni. In merito vi sono due verità. Anzitutto, chi aspira seriamente alla conoscenza superiore non temerà nessuna fatica, nessun ostacolo per cercare un iniziato che lo possa guidare nei segreti superiori del mondo. D'altra parte, ognuno può anche essere sicuro che in qualunque caso l'iniziazione gli giungerà, purché vi sia in lui seria e degna aspirazione alla conoscenza. Esiste infatti per tutti gli iniziati una legge naturale, che li spinge a non negare a nessun vero aspirante la conoscenza che gli è dovuta. Vi è poi un'altra legge, altrettanto naturale, che inibisce venga comunicato qualcosa della conoscenza occulta a chi non ne sia chiamato. Un iniziato tanto più è perfetto quanto maggiore severità pone nell'osservare queste due leggi. La catena spirituale che abbraccia tutti gli iniziati non è visibile, ma le due leggi citate formano solide graffe che tengono assieme le parti che costituiscono quella catena. Potrai vivere in intima amicizia con un iniziato, ma rimarrai separato dal suo vero essere finché tu stesso non sia iniziato. Potrai godere appieno del cuore e dell'affetto di un iniziato. Egli ti affiderà il suo segreto solo quando ne sarai maturo. Lo potrai adulare, lo potrai torturare. Nulla varrà a determinarlo a svelarti qualcosa che egli sa di non doverti confidare, perché al gradino della tua evoluzione non sei ancora in grado di accogliere in modo giusto quel mistero nella tua anima. Le vie che rendono l'uomo maturo ad accogliere un segreto sono ben determinate. La loro direzione è tracciata con lettere indelebili ed eterne nei mondi dello spirito, nei quali gli iniziati custodiscono gli arcani superiori. Nei tempi antichi che precedettero la nostra storia, i templi dello spirito erano anche esteriormente visibili. Oggi, con la nostra vita tanto vuota di spiritualità, essi non esistono nel mondo esteriore, non si vedono con gli occhi. Spiritualmente esistono però, dappertutto, e chiunque cerchi può trovarli. Soltanto nella propria anima l'uomo può trovare i mezzi che schiudano la parola degli iniziati. Deve sviluppare in sé certe facoltà fino ad un determinato grado superiore e allora potranno essergli comunicati i tesori più elevati dello spirito. All'inizio si deve avere un preciso atteggiamento fondamentale nell'anima. L'occultista chiama questa disposizione di base sentiero della venerazione, devozione di fronte alla verità e alla conoscenza. Soltanto chi la abbia può divenire discepolo dell'occultismo. Chi ha esperienza in questo campo sa quali tendenze si possono osservare fin dall'infanzia in coloro che diverranno più tardi discepoli dell'occultismo. Vi sono bambini che alzano lo sguardo con santo timore a determinate persone che si venerano. Il rispetto che sentono per tali persone è tanto grande che nel più profondo del cuore vieta loro di far sorgere pensiero alcuno di critica o di opposizione. Diventano poi ragazzi e ragazze, ai quali fa bene al cuore poter alzare lo sguardo verso qualcosa che sia degna di venerazione. Dalle file di questi giovani provengono molti discepoli dell'occultismo. Se ti sei mai trovato dinanzi alla porta di una persona venerata e hai provato per questa tua prima visita un sacro timore nel girare la maniglia per entrare nella camera, che per te è un santuario, si è in tal caso manifestato in te un sentimento che può essere il germe del tuo futuro noviziato nell'occultismo. Per ogni giovane è una fortuna avere disposizione per tali sentimenti. Non si deve però credere che queste disposizioni siano germi di sottomissione o di schiavitù. La venerazione infantile di fronte agli uomini si trasforma più tardi in venerazione di fronte a verità e conoscenza. L'esperienza insegna che meglio sa tenere alta la fronte chi ha imparato a venerare, dove la venerazione è al suo posto, ed è al suo posto ovunque sorga dalle profondità del cuore. Se non sviluppiamo il profondo sentimento che qualcosa ci è superiore, non troveremo in noi neppure la forza di svilupparci fino a qualcosa di più elevato. L'iniziato ha conquistato la forza di sollevar la testa fino alle vette della conoscenza, soltanto perché ha condotto il suo cuore nelle profondità della venerazione e della devozione. Si può ascendere alle altezze dello spirito soltanto attraverso la porta dell'umiltà. Non puoi raggiungere una giusta conoscenza se prima non hai imparato a rispettarla. L'uomo ha certo il diritto di fissare gli occhi nella luce, ma se lo deve acquistare. Nella vita spirituale vi sono leggi come in quella materiale. Una bacchetta di vetro strofinata con una stoffa adatta diventa elettrica, cioè acquista la forza di attirare corpuscoli. È una legge di natura. Basta conoscere un poco di fisica per saperlo. Allo stesso modo, chi ha imparato i principi fondamentali della scienza occulta sa che ogni sentimento di vera devozione che si sviluppa nell'anima smuove una forza che presto o tardi può condurre al progresso nella conoscenza. Chi ha disposizione per sentimenti di devozione o ha la fortuna di averli acquisiti grazie ad una giusta educazione, ha in sé una buona preparazione per quando cercherà più tardi nella vita l'accesso alle conoscenze superiori. Chi non ha una tale preparazione si trova di fronte a difficoltà fin dal primo gradino del sentiero della conoscenza, a meno che non si accinga con energia, con l'autoeducazione, a creare in sé l'atteggiamento di devozione. Ai nostri tempi è di speciale importanza che su questo punto si rivolga la massima attenzione. La nostra civiltà è piuttosto proclive a criticare, a giudicare, a sentenziare e tende poco alla devozione, alla devota venerazione. I nostri figli si danno già molto più alla critica che non ad una devota venerazione. Però ogni critica, ogni giudizio danneggia le forze dell'anima per la conoscenza superiore, quanto invece le sviluppa la devota venerazione. Non intendo dire con ciò alcunché contro la nostra civiltà, non intendo criticarla. Proprio alla critica, al consapevole giudizio umano, al concetto di vagliare tutto e conservare il meglio, siamo debitori della grandezza della nostra civiltà. Mai l'uomo sarebbe arrivato alla scienza, all'industria, al commercio, all'ordinamento giuridico della nostra epoca se non avesse esercitato ovunque la sua capacità di critica e se non avesse applicato ovunque la misura del suo giudizio. Abbiamo però dovuto pagare tutta la nostra civiltà esteriore, così conquistata, con una corrispondente perdita di conoscenza superiore, di vita spirituale. Occorre però sottolineare che nei riguardi della conoscenza superiore non si tratta di venerare gli uomini, ma la verità e la conoscenza. Di una cosa conviene rendersi ben conto. Chi è del tutto immerso nella civiltà della nostra epoca incontra gravi difficoltà per arrivare alla conoscenza dei mondi superiori. Vi riesce solo lavorando con energia su di sé. Ai tempi in cui le condizioni della vita materiale erano semplici, era anche più facile raggiungere un'elevazione spirituale. Ciò che meritava venerazione, che era considerato sacro, emergeva maggiormente sulle condizioni ordinarie del mondo circostante. In epoca di critica, gli ideali si abbassano. Altri sentimenti subentrano alla venerazione, al rispetto, alla devozione e all'ammirazione. La nostra epoca respinge sempre più tali sentimenti e così la vita giornaliera consente assai di rado di venirne in contatto. Chi cerca la conoscenza superiore deve crearli in sé, deve infonderli da sé nella propria anima. Non vi si giunge con lo studio, ma soltanto con la vita. Chi vuol diventare discepolo dell'occultismo deve perciò educarsi con energia all'atteggiamento devozionale. Nell'ambiente che lo circonda, nelle proprie esperienze, deve cercare ovunque ciò che può imporgli ammirazione e rispetto. Se incontra qualcuno e biasimo le sue debolezze, mi tolgo forza per acquistare conoscenze superiori. Ne accumulo. Se cerco invece amorevolmente di approfondirmi nelle sue qualità. Il discepolo deve sempre ricordarsi di seguire questo consiglio. Gli occultisti esperti sanno di quanta forza vadano debitori alla circostanza di guardare sempre al lato buono di tutte le cose, astenendosi dal giudicare. Questa non deve però rimanere una semplice norma esteriore di vita, ma deve impossessarsi dell'interiorità più profonda dell'anima nostra. L'uomo ha nelle sue mani la facoltà di perfezionarsi, di trasformarsi col tempo completamente. Questa trasformazione deve compiersi nella sua interiorità più profonda, nella vita del suo pensiero. Non basta col proprio contegno dimostrare un rispetto esteriore verso un essere. Devo avere quel rispetto nei miei pensieri. Il discepolo dell'occultismo deve appunto cominciare dall'accogliere la devozione nella vita dei suoi pensieri. Deve sorvegliare i pensieri di irriverenza e di critica negativa nella sua coscienza. Appunto a questo scopo deve coltivare in sé pensieri di devozione. Ogni momento in cui ci si adopera a scoprire nella propria coscienza le censure, il biasimo e le critiche che serbiamo nei confronti del mondo e della vita, ci porta più vicino alla conoscenza superiore. L'ascesa diventa rapida se in tali momenti riempiamo la coscienza soltanto di pensieri che destino in noi ammirazione, rispetto, venerazione per il mondo e la vita. Chi ha esperienza di queste cose sa che in ognuno di questi momenti si destano nell'uomo forze che altrimenti resterebbero latenti. Così ci vengono aperti gli occhi spirituali. Cominciamo ad avere attorno a noi cose che prima non potevamo vedere. Cominciamo a comprendere che prima vedevamo solo una parte del mondo circostante. Ogni uomo che incontriamo ci si palesa come una figura del tutto diversa da quella di prima. Naturalmente, con questa sola norma di vita, certo, non si sarà ancora in grado di vedere l'aura umana, quale ad esempio è descritta. Per giungervi, è necessario seguire una disciplina ancora più elevata. Si può appunto salire a tale disciplina più elevata esercitando prima una disciplina energica nella devozione. Il cammino del discepolo dell'occultismo per il sentiero della conoscenza si compie in modo silenzioso e inosservato dal mondo. Non occorre che alcuno percepisca in lui un cambiamento. Egli continua a compiere i consueti doveri, provvede ai suoi affari come prima. La trasformazione si svolge soltanto nell'interiorità della sua anima, che sfugge allo sguardo esteriore. Anzitutto, l'intera vita affettiva dell'uomo viene del tutto irradiata dalla disposizione fondamentale alla devozione per tutto ciò che è degno di venerazione. In quest'unico sentimento fondamentale, tutta la vita della sua anima trova il proprio centro. Come il sole vivifica con i suoi raggi tutto ciò che vive, così nel discepolo dell'occultismo la devozione vivifica tutti i sentimenti dell'anima. All'inizio si stenterà a credere che sentimenti come il rispetto, la venerazione e così via possono avere a che fare con la conoscenza. È perché si tende a considerare la conoscenza come una facoltà a sé, senza relazione alcuna con ciò che altrimenti si svolge nell'anima. Non si riflette però che è l'anima che conosce e per l'anima i sentimenti sono ciò che per il corpo sono le sostanze che ne formano il nutrimento. Se al corpo si danno pietre invece di pane, la sua attività cessa. Così è per l'anima. Per essa la venerazione, il rispetto, la devozione sono sostanze nutrienti che la rendono sana, forte. Forte anzitutto per l'attività della conoscenza. L'irriverenza, l'antipatia, l'insufficiente valutazione di ciò che è degno di stima determinano la paralisi e la morte dell'attività conoscitiva. Per l'occultista questo fatto è visibile nell'aura. Un'anima che adotta sentimenti di venerazione e di devozione trasforma la propria aura. Sfumature cromatiche e spirituali che possono indicarsi come rosso-giallastre, rosso-brune spariscono e vengono sostituite da sfumature di colore rosso-turchino. Così però si apre la capacità conoscitiva che accoglie notizie di fatti dell'ambiente circostante di cui prima non aveva sentore. La venerazione desta una forza simpatica nell'anima e grazie ad essa attiriamo dagli esseri che ci circondano proprietà che altrimenti rimarrebbero nascoste. Diventa ancora più efficace ciò che si può raggiungere con la devozione, quanto vi si aggiunga un altro sentimento. Esso consiste nell'imparare ad abbandonarsi sempre meno alle impressioni del mondo esteriore e a sviluppare invece un'attiva vita interiore. Chi corra da un'impressione del mondo all'altra, sempre in cerca di distrazione, non trova la via alla scienza occulta. Il discepolo dell'occultismo non deve rendersi insensibile al mondo, ma la sua ricca vita interiore deve indicargli la direzione in cui abbandonarsi a quelle impressioni. quando chi è dotato di sentimenti e di animo profondo attraversa un bel paesaggio alpestre, ciò che sperimenta è diverso da quel che può sperimentare chi ne è meno dotato. Soltanto ciò che sperimentiamo interiormente ci dà la chiave per le bellezze del mondo. C'è chi, navigando, sperimenta nella propria anima soltanto poche esperienze interiori. Un altro invece sente sul mare l'eterno linguaggio dello spirito cosmico e gli si svelano profondi misteri della creazione. Bisogna aver imparato a regolare i propri sentimenti e le proprie idee se si vuole sviluppare un rapporto profondo con il mondo. In ogni suo fenomeno il mondo è riempito di splendore divino, ma occorre avere prima sperimentato il divino nella propria anima, se lo si vuole trovare in ciò che ci attorna. Il discepolo dell'occultismo viene indirizzato a riservarsi nella vita momenti in cui, solo e tranquillo, possa concentrarsi in se stesso. In tali momenti non deve però dedicarsi alle vicende del proprio io, otterrebbe allora il contrario di quel che si prefigge. Deve piuttosto ascoltare con perfetta calma l'eco di ciò che ha sperimentato, di quel che il mondo gli ha detto. In quei momenti di calma, ogni fiore, ogni animale, ogni azione gli svelerà arcani insospettati. Sarà così preparato a vedere nuove impressioni del mondo con tutt'altri occhi da prima. Chi vuole soltanto godere delle varie impressioni che si succedono attutisce la propria capacità conoscitiva. Chi invece, dopo aver goduto, lascia che il godimento gli riveli qualcosa, coltiva ed educa la propria capacità conoscitiva. Deve però abituarsi a non dare soltanto ascolto all'ego del godimento, ma elaborare il goduto nell'attività interiore, rinunciando a gioirne ulteriormente. Qui lo scoglio è assai grande e pericoloso. Invece di lavorare in se stessi, si può con facilità cadere nel contrario e voler soltanto assaporare ulteriormente appieno il piacere. Non si sottovaluti il fatto che al discepolo si schiudono qui sorgenti incalcolabili di errore. Deve infatti attraversare una schiera di tentatori della sua anima. Tutti vogliono indurire il suo io, chiuderlo in se stesso. Egli deve invece aprirlo per il mondo e cercare il godimento, perché il mondo gli si avvicina soltanto così. Rendendosi insensibile al godimento, diventa come una pianta che non sia più capace di attirare dall'ambiente circostante alcuna sostanza nutritiva. Se invece si arresta al godimento, si chiude in se stesso. Avrà valore soltanto per sé, non per il mondo. Per quanto possa allora vivere in sé, per quanto possa coltivare il proprio io, il mondo lo espelle. Per il mondo è morto. L'occultista considera il godimento soltanto come un mezzo di nobilitarsi per il mondo. Il godimento è per lui un messaggero che lo istruisce sul mondo. Ma l'insegnamento ricavato dal godimento gli serve per progredire nel lavoro. Non impara per accumulare tesori di sapienza per sé, ma per mettere ciò che ha imparato al servizio del mondo. In ogni scienza occulta vi è una massima fondamentale che non è permesso trasgredire se si vuole raggiungere un risultato. Ogni disciplina occulta deve imprimerla nel discepolo. La massima dice: ogni conoscenza che tu cerchi solo per arricchire il tuo sapere, per accumulare tesori, ti fa deviare dalla tua strada. Ogni conoscenza che tu cerchi invece per maturarti sulla via della nobilitazione dell'uomo e dell'evoluzione del mondo ti porta avanti di un passo. Questa legge esige inflessibilmente di essere osservata. Non si può essere discepolo dell'occultismo prima di averla adottata come norma di vita. La si può riassumere in breve. Ogni idea che non diventa per te un ideale uccide una forza della tua anima. Ogni idea, invece, che diventa un ideale crea in te forze vitali.